A bordo campo di Dario Ricci. E naviga, naviga via, verso un mondo impensabile ancora da ogni teoria. Naviga, naviga via, nel suo cuore la Niña, la Pinta, la Santa Maria. L'inventore di Italy, Oscar Farinetti, più grande skipper, Giovanni Soldini, un gruppo di scrittori e di imprenditori e poi un sito, da Genova a New York via mare su una barca per trovare 7 soluzioni giuste per il presente e il futuro dell'Italia. È questa l'avventura via oceano che vi raccontiamo oggi e che parte proprio il 25 aprile da Genova per arrivare a New York, mare permettendo, il 2 giugno. E allora, sulla rotta di I Love Barolo, questo il nome di questa particolarissima imbarcazione, insieme qui a bordo campo con quello che è lo skipper di questa avventura, Giovanni Soldini. Benvenuto Giovanni a bordo campo a Radio 24. Grazie mille. Allora Giovanni, si parte per questa grande avventura, no? 7 mosse per l'Italia, si parte dall'Italia proprio verso oltreoceano, attraverso l'oceano, verso l'America. Beh, parlaci un po' di questo progetto e di come nasce. Beh, è un progetto che nasce insieme a Italy, a Farinetti, che è un po' una bandiera, no, per l'Italia all'estero, perché ovviamente porta all'estero le eccellenze alimentari in un modo molto bello, molto efficace e che ha molto successo. E quindi ci siamo incontrati, è nata l'idea di fare questo viaggio simbolico che in qualche modo unisce appunto Genova con New York. Perché anche unisce tante cose, perché appunto è un viaggio in cui comunque si porteranno in America la cultura, il cibo italiano, ma facendo questo viaggio questo gruppo di persone scriveranno 7 punti per l'Italia, che sono 7 idee per migliorare le cose nel nostro paese. Poi vedremo. Certo, viene fuori. Intanto cominciamo anche a scriverle. Anche perché, no, poi la speranza è che ci siano tanti italiani che partecipino appunto tramite il blog, il sito www.settemosse.it, che diano appunto il loro contributo in modo che si riesca a tirar fuori 7 idee che abbiano un senso. Si salpa il 25 aprile da Genova, si arriva il 2 giugno a New York. Date scelte non a caso, no? Beh, certo, il 25 aprile la Liberazione e il 2 giugno la Repubblica, poi vedremo se ci riusciamo effettivamente, perché non essendo una barca, un treno, non è detto. Infatti no, perché tra l'altro a bordo di I Love Barolo ci saranno cuochi per esportare e simboleggiare insomma quello che è la grande tradizione enogastronomica italiana, scrittori da Alessandro Baricco, Faletti, attori, Lella Costa, eccetera eccetera, però qua quello che la deve, che c'ha il timone in mano sei te, quindi insomma pure una bella responsabilità, e non è detto che l'oceano sia sempre propizio, no? Beh, quello sicuramente, infatti non sarà una scampagnata, insomma, è comunque un viaggio che rimane anche un po' un'avventura. Dal punto di vista tecnico, che difficoltà ti aspetti? Ho letto alcune tue interviste in cui appunto avvisavi i compagni di viaggio che bisogna prepararsi bene, eh? Sì, sicuramente non è un una rotta facile, no? Andare a New York, perché comunque bisogna fare il Nord Atlantico in qualche modo, quindi è sicuramente un viaggio impegnativo e sicuramente tutti i partecipanti, insomma, hanno ben chiaro che sono membri effettivi di un equipaggio che sta facendo questa navigazione, quindi dovranno partecipare alla conduzione della barca. Ecco, questo gliel'hai spiegato bene, no? Perché non vorrei che, io mi preoccupo anche un po' per te, anche se insomma col mare c'è una certa dimestichezza, diciamo così, però insomma attori, scrittori, cuochi eccetera eccetera, qua non vorrei che il povero Giovanni Soldini gli tocca fare tutto il lavoro. C'è uno spirito positivo, per cui sono sicuro che andrà tutto bene. Hanno anche competenze velistiche, non so, Lella Costa ha detto che lei per esempio un po' se la cava. Sì, esatto, ma infatti qualcuno, molti di loro hanno già fatto delle esperienze, eccetera, altri un po' meno, ma insomma, vedremo. Vedremo quando siamo lì, poi ci sentiamo, ti so dire. Senti, dal punto di vista invece del laboratorio di idee, no? Che è il vero motivo per cui questa esperienza ha preso corpo, forma e barca, quali sono un po' i 7 punti che state mettendo su carta e soprattutto quelle cose di questa Italia che vorreste migliorare come gruppo anche di intellettuali, perché voi siete un po' anche i rappresentanti, tra i rappresentanti dell'Italia in tutto il mondo. Ma le cose sono, i 7 punti spazieranno in tutti i campi, no? Per cui c'è un primo approccio, appunto il primo punto è la politica in quanto così un po' troppo forse ingorda, nel senso che secondo il primo punto si chiama metà di tutto, no? Si rivolge alla politica e dice ma forse i politici in Italia sono un po' troppi perché pare siano 250.000 che vivono facendo politica, in effetti insomma forse basterebbe un po' meno gente. E poi appunto ci sono un sacco di idee, no? Limitare il tempo per cui uno si può mettere a far politica, piuttosto che insomma, poi entreremo nel dettaglio, speriamo che gli italiani entrino nel dettaglio e ci mettono un sacco di idee. Poi ci sono punti che si occupano del problema energetico in senso lato, per cui c'è tutta una riflessione c'è l'ultimo punto che mi piace moltissimo a me, si chiama meno chiesa più Gesù. Quindi insomma entriamo che anche sul esatto. Metafisico insomma, e poi anche sul politico, no? Beh, ma voglio dire, è chiaro, l'intenzione è comunque innanzitutto vedremo se saremo d'accordo almeno quelli a bordo, certo, perché è tutto da dimostrare, se no avanti non si va. È tutto da dimostrare, per ora ci sono queste 7 idee buttate lì e poi bisognerà un attimo approfondirle, parlarne e anche vedere che cosa dicono da terra le persone, no? Perché comunque questo sito è pensato appunto per far partecipare il massimo numero di persone possibile. Qua però l'obiezione potrebbe essere facile, no? Qualcuno potrebbe dire, beh, ma questa barca rappresenta solo una parte dell'Italia, avete messo insieme Baricco, Faletti, Lella Costa, Matteo Marzotto, Riccardo Illy, insomma siete una barca di comunisti, vi manca solo D'Alema a bordo. Beh, pazienza, ma cioè... Invece mi è sembrato proprio che Farinetti ha cercato di fare uno sforzo nel selezionare di tutte queste persone per cercare di fare una roba abbastanza equilibrata. Insomma, tutto l'arco costituzionale a bordo, ecco. Voglio dire, Matteo Marzotto, Riccardo Illy, comunisti, mi sembra un po'... non lo so, sì, è vero, Illy si era rappresentato qualche anno fa come indipendente, ma insomma... Cioè, non c'è un grande imprenditore, no? Non mi sembra comunque una roba schierata in maniera pesante, soprattutto neanche estremista, ecco, direi proprio di no. Non c'è il rischio quindi che qualcuno dell'altra Italia o che non si senta rappresentato faccia un buco nello scafo, no? Ma spero proprio di no, anche perché comunque c'è un blog che è aperto assolutamente a tutte le idee possibili e immaginabili. C'è uno spirito che secondo me è uno spirito positivo, voglio dire, perché basta leggersi appunto i documenti sia sul sito che eccetera, no? Ci sono un sacco di parole d'ordine che comunque sono positive, no? Tipo mai contro, sempre per, cioè non c'è voglia di andare contro una parte dell'Italia, assolutamente, c'è voglia di parlare in maniera aperta dei problemi dell'Italia. Ora effettivamente forse qualche problema l'Italia come il mondo poi ce l'ha. E no? Quindi val la pena direi approfondire. E quindi questa può essere una bella occasione per cercare di parlarne, se non altro, per lanciare un sasso nello stagno e vedere che succede, insomma. Eh sì, un sasso nell'oceano, non confondiamo. Esatto. Giovanni... Poi il fatto di farlo dall'oceano, secondo me, è una cosa anche interessante, perché comunque vivere a contatto con la natura in un certo modo per un certo periodo ti cambia, no? Ti rimette un po' in una dimensione più umana, in qualche modo, perché ti rendi conto che poi la natura comanda. Insomma. Certo, ti stabilisci un po' le gerarchie. Mentre invece se la fai una roba così, fai una bella riunione in un hotel per 2 giorni, non è la stessa cosa, no? E quindi secondo me questo è già una bella, un bel approccio. Senti, ti chiedo... E comunque questo è il motivo per cui ci sono io, perché sennò me ne stavo, cioè, facevo dell'altro. Ah beh, certo, non è detto, dice, se non si stava in mare io non venivo, perché tenerti, no, credo, 2 giorni in una hall di un albergo sarebbe stato un po' difficile. Esatto. Senti, ti chiedo ancora, Giovanni, innanzitutto 3 consigli di viaggio per i tuoi compagni d'avventura. Primo, che la barca non è un treno. Secondo, che la natura che comanda. E terzo, viaggiamo leggeri, cerchiamo di non portarci troppe cose inutili. E 3 consigli per l'Italia che anche attraverso questa avventura volete raccontare e rappresentare? Ma 3 consigli per l'Italia te li darò alla fine di sto viaggio, perché alla fine questo è un po' lo scopo, no? Noi cercheremo di passare del tempo a pensare, a confrontarci, a capire anche come la vedono gli altri e come la vedono gli italiani, e quindi probabilmente quando arriveremo a New York avrò le idee più chiare su questo punto. Bene, allora ti do appuntamento a bordo campo qui su Radio 24 il 3 giugno giù di lì, mare permettendo, quindi non fissiamo la data d'arrivo proprio per quanto ci siamo detti. Io invece spero che tutti i tuoi ascoltatori vengano numerosi a intervenire nel blog di www.settemosse.it. Assolutamente, appuntamento in radio e poi sul blog per le 7 mosse che in qualche modo incideranno sul futuro della vostra navigazione, ma anche della navigazione del nostro paese. Speriamo. Ciao ciao. È da un mese che navigo vuoto, quell'Atlantico amaro, ma continuo a puntare l'ignoto con lo sguardo corsaro. Sarà forse un'assurda battaglia, ma ignorare non puoi che l'assurdo ti sfida per spingerci ad essere fieri di noi. Quante volte ha sfidato il destino, aggrappato ad un legno, senza patria bestemmi in latino, quando il bere l'impegno. A bordo campo. For me, London, this lovely city. You can go to France or America, India, Asia or Australia, but you must come back to London City. Oggi a bordo campo si sposta a bordo ring. Perché? Perché a un anno da Londra 2012 cominciamo un po' a vedere quali possono essere le prospettive dei nostri sport da medaglia, e tra questi sicuramente c'è il pugilato che a Pechino ci ha regalato tante soddisfazioni. Tante altre speriamo che ce ne regali sui ring londinesi, dove ci sarà una novità importante, veramente importante e significativa per la box. Per la prima volta, infatti, nel panorama olimpico esordirà la box femminile. Direi una buona notizia, vero Valeria Calabrese? Benvenuta a Radio 24 a bordo campo. Salve, grazie. Questa è un'ottima notizia, una buona notizia. Finalmente un po' di rilievo anche a noi, che siamo atleti a tutti gli effetti come gli uomini. Altro che Valeria Calabrese è appunto una delle azzurre che si giocherà la qualificazione olimpica e la possibilità di salire sul ring di Londra. In che categoria, Valeria? 51 kg, è la più bassa che è stata confermata per queste prime Olimpiadi, perché sono solo 3 categorie purtroppo, 51, 60 e 75. Essendo io una 48 non mi resta che provare la 51. Quindi insomma c'è anche il gap del peso, nata a morte. Più che altro dei centimetri, non tanto del peso, dell'altezza. Eh sì, perché i 3 kg vabbè non è un grosso problema, ma invece le avversarie sono decisamente più altine. Sì, sì. Beh, insomma, sentite dall'accento di Valeria la sua origine siciliana, nata a Modica, in provincia di Ragusa. Come ti sei avvicinata alla boxe, Valeria? Perché insomma, lo sappiamo, in Italia siete veramente un numero ridotto di donne che salite sul ring, anche se in continuo crescendo, no? Sì, io ho iniziato con la kickboxing, che ancora tutt'oggi pratico, e ho iniziato il pugilato nel 2006, perché facendo degli sport già da combattimento mi è venuto facile inserirmi nello sport, in questo sport, diciamo, il pugilato, perché comunque si tratta di sport da combattimento. È vero che siamo un numero molto ridotto in Italia, è vero anche che invece a livello internazionale il numero delle atlete donne è in fase di crescita paurosa. All'ultimo mondiale alle Barbados, nella mia categoria 51 kg, erano più di 54 le atlete, quindi credo sia un numero paragonabile e comunque competitivo con qualsiasi altro sport o sesso comunque. Beh, direi proprio di sì. E poi a scorrere anche il tuo curriculum c'è: campionessa del mondo di full contact dilettanti 2005-2009, campionessa del mondo pro full contact 2005-2010, campionessa italiana 48 kg nel 2009. Insomma, occhio a darti troppa confidenza, perché altro che uno schiaffone che ci arriva, No, non mi è mai successo, non è un tipo violento né aggressivo, purtroppo, per fortuna non lo so, però mi diletto solo sul ring a usare mani e piedi, poi per il resto mai fatto. Senti, come si sceglie una disciplina così particolare come il pugilato, o più in generale uno sport di contatto così estremo? Penso che più delle volte sia una coincidenza o un caso, perché da piccoli cominciamo un po' tutti a provare il nuoto, la pallavolo, scherma, poi magari trovi quello che ti appassiona per cui non riesci più a lasciarlo. E sfortunatamente mi è capitato questo, uno sport di contatto, ho iniziato, non l'ho più lasciato, penso che un po' per tutte sia così. Beh, parlavi di scherma anche perché è uno dei tuoi hobby, no? Più che altro mi diverto a giocare con mia sorella la piccolina che fa scherma, quindi lei con i pugni non vuole, col fioletto già le va meglio, è ancora piccolina, per cui niente, cambio io, prendo il fioletto anch'io e gioco col fioletto. Quindi insomma c'è il rischio di essere anche benevolmente infilzati in famiglia. Sì, adesso comincio a rischiare, sì. Gli uomini sono un po' spaventati da questa tua passione, da questo tuo sport, perché insomma va sicuramente contro gli stereotipi più diffusi, no? Sì, vabbè, comunque prima di essere pugile o di essere kickboxer sei comunque una donna, una persona, per cui quando ti presenti davanti agli altri non ti presenti come pugile o come ti presenti come persona, per cui non è una cosa che si vede o che dà troppo nell'occhio. Se lo dici lo si sa, se non lo dici puoi anche farne a meno, tranne per chi ti conosce, però nessuno mai si è preoccupato di questo, anche perché, ripeto, non sono un tipo aggressivo, violento, per cui no, se non lo dico non lo lascio immaginare, ecco. La prima volta che sei tornata a casa dal primo allenamento a casa, che ti hanno detto i tuoi? No, più che altro la prima volta che sono tornata a casa con l'occhio nero e mia mamma non mi voleva mandare più, continuava, ancora ora mi dice: come, io ti ho fatta bene, non ti ho fatto i difetti e tu hai impedito a farti fare i difetti dagli altri. Una volta l'occhio nero, una volta il naso ammaccato, una volta, comunque poi si è abituata anche lei, per cui adesso è diventato tutto una cosa normale. Senti, dal punto di vista tecnico, siamo qui a inseguire una qualificazione olimpica, contro quali avversari e qual è il panorama? Noi conosciamo la box femminile professionista, ad esempio, no? E faccio un nome su tutte, quello di Simona Galassi, che sicuramente è la nostra rappresentante più conosciuta, recentemente ha perso il titolo mondiale che pure aveva conquistato, insomma è la nostra rappresentante di vertice. Ma tra voi che invece vi affacciate al dilettantismo, sognando magari poi di passare tra le professioniste, qual è il livello tecnico? Il livello, diciamo che è in fase di crescita, non è in questo momento un livello ottimo, per cui siamo in fase di crescita, però comunque cominciamo a lavorare, ci sono buone speranze, ci sono delle atlete che promettono. Molte sono giovanissime, per cui anche se non sono pronte per questa Olimpiade saranno comunque pronte per la prossima e hanno un molto tempo per crescere. E poi ci siamo noi, quelle un po' più esperienti, un po' più grandi, che comunque abbiamo già una certa esperienza, sappiamo a cosa andiamo incontro, conosciamo il livello delle atlete straniere, per cui sappiamo su cosa lavorare, abbiamo il tempo e la voglia sicuramente di adeguarsi e di arrivare a quei livelli e competere con tutto il mondo. Ecco, dal punto di vista mondiale, quali sono invece le scuole, le tradizioni di riferimento al femminile? come per quelle maschili, i paesi più forti sono sempre quelli, la Russia, l'Ucraina, per quanto riguarda l'Europa, sono i paesi che comunque sono sempre in evidenza, no, non solo nei nostri sport ma in tutti gli sport, perché lo sport nei loro paesi ha un rilievo molto più importante rispetto al nostro paese, per cui quello che noi facciamo per hobby loro lo fanno là per lavoro, per cui si allenano ed è un motivo di vita per loro, per cui andiamo a competere con dei dilettanti che comunque fanno una vita da professionisti. In vista delle Olimpiadi sono tutte temibili e tutte lavoriamo per lo stesso obiettivo, per cui tutte possono essere pericolose come noi stesse siamo pericolose per loro. Qua in Italia quando sali sul ring avverti più ammirazione o più scetticismo in un mondo che è prettamente maschile come quello della box ancora? Sì, ma in Italia a dire il vero c'è ancora questa cosa che si sente tantissimo, organizzare il torneo femminile, le donne, in realtà gli atleti sono atleti, ci sono gli atleti maschi e ci sono gli atleti donne, ci guardano ancora con occhio un po' stranito, però non ci penso, ecco, non mi dà né fastidio, non mi interessa quello che si pensa, se mi ammirano, se mi criticano perché le donne non devono fare questi sport. Faccio quello che mi piace, lo faccio perché mi piace e mi diverte, per cui tutto quello che c'è sotto il ring mi tange veramente poco. Insomma, come sentite, carattere deciso, quello di Valeria Calabrese. Beh, una curiosità toglicela però, immagino che dopo il match sia piuttosto difficile, causa le conseguenze del combattimento, ma prima di salire sul ring un filo di trucco riesci a mettertelo? No, prima no. Prima spero che non me la mettono sopra il ring, tipo occhietto nero, un po' di mascara, però no, prima dei combattimenti no, poi fuori nella vita sociale comunque sì, normale. Una donna come le altre, siamo come le altre proprio. Senti, a differenza di tante donne invece che non fanno sport al tuo livello, c'è un sogno olimpico che immagino anima le tue notti e i tuoi allenamenti. Augurandoti veramente di salire su quel ring, come ti immagini Londra 2012? Mi immagino io al primo match, chiamata a voce alta col microfono, che salgo in corsetta. No, spero di vederlo non dalla tribuna ma di essere protagonista, lavorerò fino a quel momento per questo, per cui no, non immagino niente, no, non mi voglio insomma portare troppo avanti, vivo giorno per giorno fino a quel giorno, poi se ci sarò bene, se non ci sarò seguirò da fuori, però sarà comunque, ci ho lavorato per cui ci credo e fino a che non mi dicono ci sono o non ci sono ci crederò. Niente alla fantasia, non è più neanche tanto un sogno, è una cosa concreta, perché i sogni penso che siano delle cose un po' astratte, invece il sogno si trasforma in qualcosa di concreto, per me questa è una cosa concreta, una cosa per cui devo lavorare, una cosa che sicuramente posso raggiungere, per cui fino a che ci sono provo a raggiungerla. E allora in bocca al lupo a Valeria Calabrese e veramente facciamo gli scongiuri affinché questo lavoro possa essere ripagato e questi guantoni possano davvero incrociarsi su quel magico ring a 5 cerchi. Grazie di essere stata nostra ospite a Bordo Campo e a Radio 24. Grazie di tutto. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Peter Bescapè in regia, vi ricordo che potete riascoltarci sul nostro sito internet www.radio24.it, scriverci alla mail abordocampo@radio24.it e dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo sempre sul nostro sito. L'appuntamento è per domenica prossima come d'abitudine alle 14.30 e per sabato in replica alle ore 6.30. Buona giornata da Dario Ricci.